ad alta voce. Maria Paiato legge Il Comunista di Guido Morselli. Quinta puntata. Il ragazzo dell'albergo aspettava da qualche momento sull'uscio. Ferranini non se n'era accorto. «La signora Corsi è arrivata. E chi è? Chiede di lei. Faccio salire. Ah! Falla salire». Salutò Nuccia, senza mostrare sorpresa di vedersela lì, d'improvviso. «Quasi quasi adesso mi piace più Roma», furono le sue parole. E Nuccia, che temeva altro, poté rallegrarsene. Lui veramente la vedeva volentieri. Un po' di calore dopo tutta quella nebbia, una voce rassicurante, come era la sua voce. Per prima cosa Nuccia ispezionava la camera, lo sguardo diffidente della donna. «Ti sei buttato sul letto, non stai ancora bene. Me lo immaginavo, vedi che sono venuta?» «Stavo facendo certi pensieri, la solita poltroneria. Ci sono novità?» «Una novità c'è e sarai contento. Anche per questo mi sono decisa. Ieri ti stavano cercando dal partito». «Chi?» Pare. Qualcuno che sta in alto, molto in alto». Lui si era scosso. «Maccagni? E perché no? Potevano averlo informato del lavoro che preparava. Dopotutto, la riforma della legge sull'infortunistica era una materia importante, scottante, degna della sua attenzione». Ma la speranza gli si spense subito. Dei suoi amici non ce n'era uno che avesse accesso al capo. E poi Maccagni lo aveva sempre ignorato. Ma che? Impossibile. Fra l'altro, gli pareva di aver sentito dire che fosse all'estero in quei giorni. «L'ho saputo ieri sera», proseguì Nuccia, «dall'onorevole Amoruso». «Amoruso conosce la tua esistenza?» Nuccia scoppiò a ridere. «Non sono un microbo, poi. È venuto in libreria. Allora Amoruso sa che io e te... E se non lo sa, lo immagina. Ti spaventa tanto?» Ferranini si teneva la testa fra le mani. «Il treno di Roma», le disse, «passa di qui alle 22:40. Abbiamo il tempo di prepararci». «Ma tu vuoi che partiamo adesso?» Nuccia era costernata sul serio. «Partiamo domattina». «Bisogna stare molto attenti. Questa città è un covo di pettegoli. Domani la gente racconta che mi faccio raggiungere dalla mia amante». Si arrendeva. Tanto a che scopo? Per avere una delusione in più. Se lo cercavano, era la convocazione del gruppo o un'altra baggianata compagna. Cenarono presto, lì stesso, nell'albergo. Poi Ferranini preferì risalire perché, non glielo disse, seguitava a sentirsi stanco. Dopo essersi fatta dare una camera, Nuccia venne su da lui, che si era appena spogliato. Stava entrando in letto e le indicò il canapè sotto la finestra. «Non avevo idea di venire a nanna con te, sai?» «Andiamo, Nuccia, non fare i discorsini, non è la giornata». «E tu non fare il compagno Ferranini. Sei in pigiama, che è un'invenzione borghese». Tuttavia, se ne andò buona a sedersi sul canapè, pensando di lasciarlo dopo poco perché dormisse. Con Amoruso non avevano parlato soltanto di affari politici. Da certi segni, da qualche involontario accenno del collega, Amoruso aveva capito che Ferranini nascondeva una forma cardiopatica, di origine nervosa, gli pareva, che lui avrebbe cercato di conoscere meglio a un'occasione che si fosse offerta, ma che andava cautamente seguita frattanto. A lei, turbata, che insisteva per sapere di più, oppose il gesto eloquente delle mani levate e aperte. «Signora mia, di più, posso dirle, dovrei visitarlo. Intuisco che il nostro amico è un cardiaco inveterato, forse non grave. Posso sbagliarmi in eccesso o in difetto». «Fare l'elettrocardiogramma», disse lei. Che non sbaglia pure l'elettrocardiogramma. Poi, se è un nervoso, certi controlli e allarmi rischiano di aggravare la situazione». Così decise di raggiungerlo. Aveva bisogno di rivederlo subito. Andando su nel treno, continuò a pensarci e per una trasposizione inconscia che era meglio che irragionevole gelosia, al male di cuore del suo amico, di cui ormai non dubitava, veniva associando un male di cuore di tutt'altro genere. Walter mi ha affezionato e basta. Io sono cara e superflua nella sua vita. Lui continua a soffrire per la ex moglie. Si tormenta, senza mai tirare fuori una parola. Le braccia piegate sotto la nuca, Ferranini la guardava. Walter, ti farebbe bene essere sincero. Dovresti parlare. I pensieri che facevi prima, quando sono arrivata. Tu pensavi a tua moglie. Vuoi sapere a cosa stavo pensando? All'America. Al crollo che per me è stata l'America gli ultimi 4 anni. Solo l'America, tu dici? Stamattina non vado a trovare un certo Minelli che era là con me. Sigfrido Minelli. Fu lui a farmi conoscere Roger DeMar, la ditta dove poi sono entrato. Ora io ero sbarcato un uomo libero e vivo. Entrando da DeMar, cominciai ad andare giù, a sprofondare in un mondo spossessato, reificato, che doveva trasformarmi. È stata la crisi della mia vita, lo sai pure. Un tradimento. Il tradimento, fece lei, lo hai sofferto tu, poveretto. Dico che tradivo la mia fede. Ti rendi conto? Io, giovane socialista, preso nell'ingranaggio, diventato io una ruota dell'ingranaggio. Nuccia pensò, prima il preambolo ideologico, poi passa a Nancy, a sua moglie. Invece Ferranini non aveva in mente che quello che diceva. Roger DeMar, ma alla parrocchia di Altamura, provincia di Bari, dove nacque, registrato col nome di Ruggero De Marco. Era, è stato sino a qualche anno fa, titolare di una ditta di coloniali a Camden, un sobborgo di Filadelfia, Pennsylvania. Di italiani fra i piedi a bottega ne aveva sin troppi e non ne voleva di più. Quando Ferranini gli si presentò, fece un'eccezione, perché veniva dall'Alta Italia e perché stentava a parlare americano. Non sarebbe stato un chiacchierone. Lo assunse col grado di aiuto commesso, second clerk, per sorvegliare i furgoni negozio della ditta, itineranti a vendere a domicilio zucchero e caffè, cioccolata e saponette, e nel giro di 6 mesi lo promuoveva impiegato di fiducia, con l'incarico di visitare i fornitori e ricevere i clienti importanti. Non era postuma ingratitudine quella di Ferranini. Il fatto è che in quei veloci 6 mesi il giovane socialista, unico cultore superstite delle tombe di Sacco e Vanzetti, si venne cambiando in uno zelante, anche se a volte un po' distratto, un po' imbronciato, dipendente della DeMar Incorporated, azienda bonariamente familiare, ma con $500,000 di incassi all'anno. I primi tempi si era ingegnato di tenersi a galla. Troppo schietto per fare di nascosto, col fiducioso permesso del principale, si allontanava da Camden mezzo sabato e domenica. Andava in cerca di immigrati italiani della sua fede, li riuniva, aiutato da Minelli, teneva lezioni di antifascismo, di marxismo elementare, li incuorava, si rincuorava. Pensò di mettersi in contatto con le organizzazioni sindacali locali. Qui lo stesso Minelli, meglio informato o accorto, provvide a sconsigliarlo. I sindacati sono peggio nell'Est che a Chicago e del socialismo alla maniera nostra non sanno niente, non vogliono sapere niente. Ma le conferenze ai compatrioti tutti meridionali non gli davano il gusto che sperava. Piuttosto che un predicatore, come Ferranini tirava a essere, quelli chiedevano un assistente, un collocatore, e non fiutandone la capacità in Ferranini, alle discussioni teoriche si prestavano fiaccamente o si rifiutavano, finché finivano col non farsi più vedere. Per giunta, la libertà che la statua famosa all'ingresso del continente aveva promesso a lui, come a milioni di altri transfughi, mostrava di non essere tanto generosa. Un pomeriggio di domenica, in una cittadina del Massachusetts, una notte di treno per arrivarci, parlava a una piccola udienza di siciliani, calzolai, sarti e barbieri. Uno di costoro si era alzato a domandare, in ottima lingua americana, se una persona che non sia sottosviluppata potesse ancora leggere la Bibbia. Lui se ne stava illustrando la dottrina marxiana delle soprastrutture e credette che la domanda posta in quei termini lo invitasse a parlare chiaro. Rispose che una persona intelligente quelle storie tutt'al più le racconta ai bambini. Il siciliano era un agente provocatore. Arrivò a Camden un decreto della polizia di quella tale cittadina. Ferranini era diffidato a non occuparsi della religione cristiana con intenti e linguaggio irrispettosi in uno stato cristiano e in un paese cristiano. Se gli era caro evitare le sanzioni penali, inclusa la prigione, previste dal Blasphemy Act, legge federale. Ferranini seguitava a parlare a bassa voce. La stanza d'albergo era grigia, il riscaldamento avaro. Una sola lampada accesa sul lavandino che li lasciava nella penombra tutti e due. «Se sapessi che malinconia mi sta venendo», disse Nuccia, rannicchiata sul suo canapè. «Allora va a dormire. Queste cose ci torno perché me l'hai chiesto tu». Come succede agli uomini che non hanno l'abitudine di parlare di sé, nel riferire Ferranini badava meno a essere capito che a essere d'accordo con se stesso. Nella terra incolta che era la sua memoria di quegli anni, apriva un solco rettilineo senza curarsi di ciò che lasciava inesplorato ai margini. E poi «Ti avverto», le disse, «che l'individuo empirico in questo che ti ho raccontato non interessa niente, interessa una cosa sola, l'involuzione di una coscienza». Nuccia rise. «E a me interessa l'individuo empirico, oh guarda, tu non sai che buona volontà ci vuole a una donna per tener dietro a uno di voi, per poco che non sia un mediocre». Ferranini, ricordando quegli anni, si sentiva ben meno che mediocre, ma aveva avuto ragione lei. Confessarsi fa bene ed è una cosa giusta, a costo di qualunque pudore, perché c'era da vergognarsi. Erano i primi mesi del 40. Lui tenne altre lezioni e conferenze, 3 o 4, e poi smise, ci rinunciò. A levargli l'entusiasmo non era stato paura di violenze poliziesche o dispetto di vedersi squagliare gli uditori. Peggio. Altri interessi si insinuavano in lui, sintomi di un processo regressivo in atto. L'ambiente che se lo assimilava così e nel senso più preciso estraniandolo a lui stesso. La potenza di peristalsi che caratterizza la società borghese. In un anno scarso dal suo ingresso nella ditta di Camden aveva avuto 3 aumenti di stipendio, senza richiederli. 3. Sicché non gli bastava più andare a Filadelfia, alla biblioteca municipale, a prendere a prestito i libri che leggeva. Cominciò a comperarsene. L'illusione dell'appropriazione, che è la realtà dell'alienazione. I libri dovevano essere suoi. Stanco di vivere a pensione presso un'italiana della Edgware Road, di rimpetto alla ditta, mise l'occhio su un appartamentino di 2 camere che era in vendita in fondo alla strada e ci si installò, sborsando disinvolto le prime 2 rate. L'America livellatrice, all'attraente livello della sua way of life, laminava le velleità del giovane socialista sino a renderle inavvertibili o inconsistenti ai suoi occhi. E Sacco e Vanzetti, la propaganda di classe, l'ateismo e l'ingrata sorpresa del Blasphemy Act si disponevano a sciogliersi nel limo dei ricordi spiacevoli. A principio di primavera si aggiunse, inevitabile, l'acquisto di un'auto e fu una modica Chevy di seconda mano. La guerra aveva dato fuoco al mondo. Milioni di uomini come lui ci si consumavano. Lui a vivacchiare pacifico, badando alla carriera. Un impiegato della ditta, tedesco, era stato internato in un campo. Scriveva che lo trattavano benissimo, ringraziava la grande nazione, liberale persino con i figli dei suoi nemici. Ferranini era costretto a prenderne atto, ad ammirare, ma prevedendo che l'Italia si sarebbe schierata con i nemici, paventava il momento in cui lo avrebbero messo a tener compagnia al collega. E invece, anche dopo la dichiarazione ufficiale di guerra, Ferranini e con lui la più parte dei connazionali non ebbe noie. Seguitò a vivere come aveva vissuto. Nessuno si curò di limitare i suoi movimenti. Minelli abitava a New York. Era amico di una ragazza che lavorava al consolato d'Italia. Era venuto a trovare Ferranini, gli aveva annunciato che il consolato stava chiudendo. Adesso ci ficcano dentro, vedrai. De Mar a rassicurarli. I know better, voi state in pace, pensate alla salute. Infine, si provò a dire Nuccia, De Mar ti voleva bene. Ho detto di no, ma intanto mi aiutava a rinnegarmi. Lui aveva messo in moto l'ingranaggio che mi macinava e non è che non me ne accorgessi. Dicevo, Walter, sta attento. Ti stai perdendo, sei perduto. Americanizzato epidermicamente, nel modo di impugnare il sigaro e sino nella compiacenza di ornarsi l'ufficio del ritratto del quacchero Penn, ma accanto c'era quello di Pio XII, sposato a un irlandese di 15 anni più giovane di lui, che era di là dei 55, marito e padre poco soddisfatto, De Mar era persuaso che la moglie e i due figli più grandi, ne aveva 4 in tutto, lo tollerassero appena e cercava fuori di casa la sua rivincita. Al buon successo dell'azienda aveva tenuto dietro qualche carica parrocchiale e municipale, che non gli pareva sufficiente. Il titolo di wholesale grocer, col quale figurava onorevolmente nell'annuario della Camera di Commercio di Camden, non lo lusingava. Gli piaceva chiamarsi proprietario e ne aveva il diritto da quando, nella liquidazione di un fallimento, si era impadronito di un bel pezzo di terra che lui misurava a modo suo, a tomoli e non a acri, con 2 fattorie, 2 stalle, una piccola segheria mossa da un torrente. Migliaia di piante, prati a perdita d'occhio. Ci passava un paio di settimane l'estate, poi non poteva più andarci a causa della distanza perché era obeso, soffriva d'enfisema e a viaggiare in automobile penava troppo. Saputo che Ferranini era nato in campagna e qualcosa capiva di lavori agricoli, prese a mandarci lui. Quelle spedizioni che a Ferranini piacevano troppo diedero tranquillità al suo principale. La Old Laurel Farm, si chiamava così dai tempi della guerra civile, smise di essere passiva. Avena e patate si seminarono. I foraggi furono raccolti e venduti. Persino il bosco, aceri e querce, che prima era incolto quant'era folto, cominciò a rendere. A questo punto il racconto si dettagliava, si infervorava. Il sabato, che era ancora notte, partivo da Camden. Mi ci volevano 4 ore per arrivare a vedere il grande lago. Il lago Erie, grande come un mare. Una volta arrivato giravo per i campi, facevo i conti con gli uomini. Avevo assunto 2 salariati e alla stagione giusta prendevo 2 altri avventizi per il foraggio. Passavo delle ore nelle stalle. A mezzogiorno mi buttavo sull'erba davanti alla casa padronale, vuota e chiusa. Stavo così fino a tardi, stravaccato, a guardare i campi della mia tenuta, le praterie che scendevano sino alle rive distanti del lago. Non c'era un segno di abitazione. Lontano tagliava la campagna una linea ferroviaria a un binario, qualche raro treno che se ne andava col suo pennacchio di fumo. Nuccia non aveva mai saputo che Walter si fosse interessato a un paesaggio. Quella descrizione, abbastanza lirica, la meravigliava. Ci avevo preso quello che si dice l'infognatura. Correvo all'Old Laurel come se fosse un appuntamento. Vivevo per quello. Avevo dimenticato di essere un uomo per quello. E eri contento? Avevo troppi rimorsi. Ma di che? In Lenin si legge che la musica è una cosa dolce, gradevole e pericolosa, come tutte le cose che distraggono dal reale. I frammenti di quello che veniva dopo, una storia non molto allegra, ma semplice, usuale e borghese senza rimedio, Nuccia li possedeva già, più o meno precisi. Il lavoro di metterli insieme da sé l'aveva occupata tante volte. Ma non so il più importante. Mi hai sempre raccontato la tua storia come la senti adesso, come la interpreti adesso. Vorrei sapere come la sentivi allora, ossia come l'aveva vissuta. Era infine una pretesa eccessiva. E poi tornare indietro al suo matrimonio, al fidanzamento, ritrovare i fatti e gli stati d'animo, era come esporre un'altra persona, sua moglie, la sua Nancy, a un giudizio probabilmente non imparziale. Una persona che Ferranini stesso non aveva voluto mai giudicare. No, impossibile. Adesso facciamo notte. Va a dormire, dai, che è tardi. Maria Paiato ha letto Il Comunista di Guido Morselli, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Jacopo De Bertoldi e Ornella Bellucci. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.